Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non era un killer qualsiasi. Semmai ci può essere una scala di valore dei killer, forse quella dell'efferatezza è l'unica che corrisponde a una logica. E per efferatezza il ragazzo di nemmeno 20 anni che avevo davanti stava sui gradini più alti di quella classifica. Sono Fabrizio di Belluno, ho 56 anni e faccio l'avvocato. L'etica è una parte della filosofia che studia il bene e il male, il giusto e il cattivo, più o meno, lo so, è detta in maniera sommaria, ma grosso modo è così. Ed è difficile parlare di etica perché è un argomento molto complicato, perché è molto sottile e perché è molto astratto. Quando però un professore al liceo cercò di spiegare alla mia classe che cosa fosse l'etica, in poche parole più o meno, ricordo che ci disse: l'etica è tutto quello che ha regole non scritte, che riguarda il modo in cui si diventa una persona migliore. Ecco, essere delle persone migliori, quindi, credo che sia la chiave dell'avere un proprio codice etico o morale. E la storia di oggi parla di una scelta fatta proprio in nome di un'etica personale. Parla di una rinuncia professionale, per essere precisi, una rinuncia fatta perché, oltre una certa linea personale di moralità, non si può andare, o almeno il protagonista, Fabrizio, non poteva andare. E in un periodo in cui il lavoro manca e quello che c'è spesso è frammentario, è mal pagato, è difficile prendere decisioni di carattere morale, se hanno a che fare col lavoro, ovviamente. Fare delle rinunce in nome di qualcosa che non è scritto e che magari altri accetterebbero mette in seria difficoltà la nostra idea di moralità. Di solito, però, dopo aver scelto di rinunciare a qualcosa per motivi etici, ci si sente un po' meglio. Di solito, forse. Ecco, oggi parliamo di questo. Parliamo di rinunce fatte in nome di un personale o condiviso codice etico. Se avete detto di no ad una persona perché non ne condividevate le scelte, se avete detto di no a un lavoro perché eticamente non vi apparteneva, se avete rifiutato una proposta perché non era giusto accettarla semplicemente, ma anche se in generale avete rinunciato a qualcosa per motivi morali, oggi è la puntata per voi. E potete anche chiamare all'800 24 0024 per raccontare in diretta queste rinunce in nome di un vostro codice etico, oppure 349 238 6666 via SMS. Esiste anche un profilo Facebook dove potete leggere più o meno tutto quello che raccontiamo o un sunto di quello che raccontiamo durante la puntata e i messaggi che arrivano a questo proposito. Laura, ad esempio, mi scrive: avendo vinto un prestigioso concorso con le mie sole forze, ho rinunciato a una raccomandazione offertami a posteriori, visto che l'agognato posto non arrivava, e infatti non è mai arrivato. 800 24 0024. Non parliamo solo di scelte, o meglio di rinunce di carattere professionale in nome di un vostro codice etico, ma basta anche, che so io, non essersi messi in una fila privilegiata perché in coda perché non era giusto, perché non era la vostra, o non avere approfittato di qualcosa che eticamente vi dava fastidio. 800 24 0024. Monica mi scrive: essere vegetariana è una rinuncia, che non è stata però una rinuncia, anzi è stata una scelta d'amore. Essere vegetariani chiaramente prevede un proprio codice etico ed è più di uno che lo scrive. Emanuele: rinunciato a salame e fichi e al bollito con la mostarda, no ai fichi e no alla mostarda. Insomma, anch'io sono diventato vegetariano perché se niente importa. E qui cita qualcuno che l'ha raccontato meglio di lui, Jonathan Safranfoer. Laura: non mangiare animali, anche lei. E poi Benedetto scrive: ho rifiutato di insegnare sostegno, che è quella parte dell'insegnamento delle scuole superiori, credo, solo, o anche forse anche medie inferiori, perché non mi sento in grado di farlo. Tutti i miei colleghi che invece lo hanno fatto, e raramente erano in grado, sono di ruolo. 800 24 0024. Qualsiasi sia stata la rinuncia che avete fatto in nome di un vostro codice etico, sapete, quelle cose che poi è proprio difficile spiegare, perché magari tutti intorno vi dicono: ma come, scusami, ma perché hai detto di no? Ma va, ma fan tutti così, ma no, è un errore. E poi magari ci avete ripensato, però alla fine siete convinti di avere fatto giusto. una rinuncia fatta in nome di una vostra moralità. 800240024 è il caso di Fabrizio, che racconta una storia che ha a che fare con l'etica e ha a che fare quasi con il thriller. Il capitano dei carabinieri estrasse la pistola e gliela puntò alla tempia. L'uomo si calmò quasi istintivamente. Altrettanto istintivamente, quando si era scatenato l'inferno, io mi ero rifugiato dietro l'altra scrivania che stava nella stanza. Una delle due sedie, infatti, era volata proprio nella mia direzione. L'altra era finita contro la porta. Ora nella stanza era scesa una calma irreale. Fu allora che mi chiesi che cosa ci facessi lì e come mai fossi finito in una tale situazione. Tutto era successo qualche giorno prima. Stavo lavorando al mio computer, allora uno dei primi personal computer, quando ricevetti una telefonata. Era la stazione dei carabinieri della mia città, una piccola città di montagna dove non succede mai nulla. Dall'altra parte del filo una voce cortese mi chiedeva conferma della mia identità e, avutala, mi avvisava che un tizio era stato arrestato e che io ero stato nominato suo difensore d'ufficio. Mi ero limitato a prendere nota dei dati, come facevo sempre. Il giorno dopo sarei andato a trovarlo in carcere. Ma quella sera di maggio era ancora luminosa e la voglia di stare davanti a quello schermo fosforescente stava svanendo. Ci pensai un po' e decisi che sarei andato immediatamente in caserma a trovare il mio cliente. Sono un avvocato civilista, ma civilista per necessità, nel senso che a Belluno poi questioni di natura penale non è che ce ne siano tantissime. Quando posso faccio molto volentieri anche il penale. È un mestiere che mi ha affascinato sin dall'inizio, quando ho iniziato a fare la pratica. Un lavoro assolutamente interessante, un caso non è mai uguale ad un altro. Qualche decina di minuti dopo ero alla porta Carraia con il mio documento in mano. Notai subito lo sconcerto e la strana agitazione che aveva contagiato tutti quelli che si muovevano nel formicaio della caserma. Non ne comprendevo però la ragione. Mi fu subito chiara quando, dopo quasi un'ora, riuscii a parlare con il mio cliente. Era un ragazzo di nemmeno 20 anni, che si esprimeva in un italiano intriso di dialetto calabrese. Era stato arrestato in una baita di montagna dove si era nascosto. Al momento dell'arresto gli era stata trovata addosso una pistola Glock, una pistola realizzata con plastiche speciali, che era in grado di passare indenne in metal detector e costava, allora, diversi milioni di lire. Non era un arresto qualunque. Scoprì poi che quel ragazzo era un killer dell'Andrangheta. Quindi non un killer qualsiasi. Semmai ci può essere una scala di valore dei killer, forse quella dell'efferatezza è l'unica che risponde a una logica. E per efferatezza, il ragazzo di nemmeno 20 anni che avevo davanti stava ai gradini alti di quella terribile classifica. Mi ero ripreso dallo spavento ed ero uscito dalla stanza dell'interrogatorio e poi dal carcere. Nell'uscire avevo respirato profondamente, come chi è stato in apnea. Ma non era stata l'aria a mancarmi, ma la ragione, l'umanità e il dialogo tra esseri umani. L'intervento del collega che era arrivato da Reggio Calabria, inviato dalla famiglia, aveva calmato il ragazzo e così mi ero allontanato. Quasi per scusarmi, non comprendevo quanto quello che era accaduto fosse a loro imputabile. Poi, prima di uscire, i magistrati, giunti anche loro da Reggio, e il capitano dei carabinieri mi invitarono a cena per la sera del giorno dopo. Quella sera stessa io tornai a casa sconvolto e mia moglie cercò di farmi dire qualcosa, ma le dissi che non avevo nulla da dire perché nulla potevo dirle. Accampai un segreto professionale e me la cavai così. In realtà non avevo nessuna voglia di parlarne. La sera del giorno dopo mi recai al ristorante dell'hotel che si trovava di fronte al tribunale. Il padrone del locale, quando mi vide, mi disse che le persone che mi aspettavano erano in una saletta separata. Il titolare del ristorante, però, commise l'errore di non preavvisare i commensali del mio arrivo. Quindi, non appena aprii la porta ed entrai nella saletta, Il capitano dei carabinieri mi fu addosso in un attimo, con la pistola spianata. Tutto si calmò in pochi istanti, ma dentro di me pregai che questa esperienza della mia vita terminasse il più presto possibile. Mentre i due magistrati mi parlavano e mi chiedevano della mia provincia, di quale cose ci fossero da vedere o altre amenità, io li osservavo. Erano due ragazzini, maturati troppo in fretta. Immediatamente pensai che la nostra speranza di vincere quel cancro era riposta in quel pugno di magistrati ragazzini e in qualche capitano dei carabinieri ancora incredibilmente intriso di spirito di sacrificio e di un ideale di giustizia. Dopo tanti, tanti anni che esercito questa professione e sono a contatto con la giustizia degli uomini, spero che esista quella di Dio, perché quella degli uomini mi ha lasciato abbastanza deluso. È un qualcosa in cui dobbiamo comunque credere, verso cui dobbiamo comunque tendere, però un po' di delusione dopo tanti anni. Cenammo e al dolce tornammo a parlare del mio cliente. Mi spiegarono che era il figlio di una potente famiglia dell'Andrangheta e il suo compito era quello di rifornire le attività della famiglia delle armi necessarie. Le acquistava in Svizzera e per fare questo si era fatto costruire una villa da diversi milioni di euro, vicino a Milano. Era ricercato ed era per questo ricercato e per un terribile episodio. Una sera di primavera se ne stava sfaccendato nella piazza del paese e per noia, oltre che per acquistare autorità nei confronti degli altri, mentre discuteva con amici del fatto che in quel paese non c'era nulla di eccitante da fare, aveva esclamato che per movimentare la situazione avrebbe ammazzato un carabiniere. Il destino volle che pochi minuti dopo lui notasse salire lungo la via che portava alla piazza un carabiniere in borghese che, terminato il servizio, se ne stava tornando a casa portando due borse della spesa. Senza alcuna esitazione si era avviato lungo la via ed, incrociato la sua vittima, la fermò con la scusa di farsi accendere una sigaretta. E mentre l'uomo stava appoggiando le borse a terra per cercare l'accendino, lo aveva freddato con un colpo alla nuca. Erano rimaste la vedova e i due figli piccoli. E mentre i magistrati mi narravano quell'episodio, un lampo d'odio, lo stesso che avevo notato quando aveva puntato la pistola alla tempia del mio cliente in carcere, passò nuovamente negli occhi del capitano dei carabinieri. E allora compresi l'immane, sovrumano sforzo che doveva aver fatto per non premere il grilletto. Avevo sempre pensato da avvocato che anche il peggior criminale avesse diritto alla difesa e che io non ero un giudice, non era mio compito decidere o emettere giudizi morali. Lo pensai fino a quel momento. La mattina del giorno dopo passai a depositare un atto in tribunale. Entrai nella segreteria del pubblico ministero. La signora Katia mi disse sorridendo, come mi accoglieva sempre, cosa ci porta di bello oggi, avvocato? E quel giorno le risposi una rinuncia al mandato. Probabilmente la prima storia di investigazione, direi la prima storia noir che abbiamo qui, a Voi Siete Qui, una sorta di storia alla Camilleri o alla Massimo Carlotto in cui c'entrano assassini, polizia e avvocati. Tutto è nato però grazie a Fabrizio, che è un avvocato che ha vissuto questa storia e ce l'ha raccontata. Pronto Fabrizio? Sì, eccomi qua. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie, e tu? Benone, grazie. Dove sei? In ufficio in questo momento? No, in questo momento sono a casa ancora per una ventina di minuti. Senti, volevo chiederti invece qualcosa riguardo, qualcosa che tutti più o meno sappiamo, ma che a me personalmente non è mai stato spiegato da un professionista. Che cos'è l'avvocato d'ufficio? L'avvocato d'ufficio è quel professionista che assiste gli imputati e che viene nominato direttamente dagli uffici giudiziari e quindi che garantisce il diritto della difesa dell'imputato sin dalle prime fasi processuali, con immediatezza nel momento in cui uno viene iscritto nel registro degli indagati, gli viene anche assegnato un difensore d'ufficio. Qual è l'articolo? C'è un articolo della Costituzione, immagino, no? Che decreta che ognuno si deve poter difendere. Il 24 è un articolo fondamentale. Che dice, scusami? Che dice che tutti hanno diritto ad una difesa nell'ambito del processo, quindi nel momento in cui lo Stato ti muove un'accusa, tu hai un diritto assoluto e costituzionale di difenderti. Ma e quindi come funziona? Che, cioè, tutti gli avvocati sono iscritti in una lista e che vieni chiamato da chi? Dal tribunale? Ti dicono, lei è stato scelto per... Sì, facciamo dei turni. Ah. Quindi ci sono dei giorni in cui io e i miei colleghi siamo di turno, nel momento in cui c'è la necessità di avere un avvocato sia per delle esigenze istruttorie ma anche per il dibattimento, può capitare che un altro collega abbandoni la difesa, c'è la necessità che subentri immediatamente un altro collega. Non ci può mai essere un caso in cui un imputato rimane privo del proprio diritto alla difesa. Ma in quel caso la parcella chi te la paga? La parcella la dovrebbe pagare, e sottolineo il condizionale, la dovrebbe pagare l'imputato. Ah, ok, nel senso che è un avvocato d'ufficio, nel senso che tutti quanti hanno diritto a, però poi di fatto è l'imputato che paga la propria difesa. Diversa è la questione che riguarda il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Che è un altro caso ancora? È un altro caso ancora. Se una persona ha un reddito inferiore, mi pare, ai 9.000 euro attualmente, sì, ha diritto di chiedere allo Stato di essere assistito in maniera gratuita da un avvocato che è iscritto in un altro elenco, che è l'elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Perfetto, senti, invece veniamo alla questione, proprio alla storia vera e propria, che è molto chiara e proprio lineare, sin dal titolo della tua storia, che è rinuncia al mandato. Innanzitutto si può fare questa cosa, non che io sia un esperto di giurisprudenza, però non immaginavo che uno potesse dire no, io questo non lo faccio. Ecco, si può fare. Se io fossi rimasto un difensore d'ufficio non l'avrei potuto fare, salvo non avere delle assolute comprovate ragioni di tipo oggettivo per non seguire più il cliente, un contrasto sulla linea difensiva, ci sono mille motivi per i quali uno può anche rinunciare alla difesa d'ufficio, però io nel frattempo ero diventato suo difensore di fiducia e il difensore di fiducia può rinunciare in qualunque momento, nel momento in cui non si sente più in grado di svolgere in maniera serena il proprio lavoro, ha diritto di rinunciare. Quando è che sei diventato avvocato? Quanti anni fa, Fabrizio? Sono diventato avvocato, ho superato gli esami nell'86 e poi mi sono iscritto nell'89. Quindi sono 23 anni. Quali sono, se ci sono, degli ideali che a un ragazzo di 20 anni, 19, fanno venire voglia di studiare giurisprudenza per fare l'avvocato? Ma fin da piccolo mi piaceva stare dalla parte di chi subiva dei torti, mi veniva assolutamente naturale, era per me un fatto del tutto spontaneo, per cui poi maturando e crescendo matura anche l'idea di dire cosa posso fare per poter intervenire proprio in maniera formale, quindi dare una veste e addirittura trasformare questa cosa in un lavoro. Mi è parso naturale fare l'avvocato. E com'è andata poi? No, te lo chiedo perché hai una voce un po' disincantata, Fabrizio. Un po' disincantata perché poi ti rendi conto che la giustizia umana ha mille difetti, però è l'unica che abbiamo. Forse si potrebbe fare anche molto meglio. Senti, qual è la delusione più grande rispetto appunto alle aspettative che avevi quando hai cominciato a fare questo mestiere a distanza di 20 anni? La cosa che ti ha deluso di più di questo mestiere? Forse tutto un insieme di fattori. La cosa che mi ha deluso di più, il disinteresse del sistema, chiamiamolo così, un termine brutto, ma dall'idea proprio per la giustizia. Pian pianino ci sono tante persone che ho conosciuto che se ne sono andate, non sono state sostituite, E il sistema giustizia è stato veramente abbandonato, secondo me, e vive questa sensazione di abbandono. Di abbandono, ma questo poi si riverbera anche nei rapporti tra le persone. Fabrizio, ti ringrazio per il racconto, ma soprattutto per le tue parole molto chiare e molto pacate. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao Fabrizio, grazie. La foto di Fabrizio è quella che si trova in realtà sul sito del suo studio legale. È con una donna, con una ragazza, una bella donna che è seduta a un tavolo e lui alle sue spalle. Fabrizio è proprio la faccia bonaria dell'avvocato di cui ti fidi, a cui avresti voglia di raccontare non solo il tuo caso di giustizia, ma anche qualcos'altro. La cosa interessante però è lo sluffice intorno, perché l'arredamento, avete presente quegli armadietti di legno un po' vecchio, un po' anni 70-80, che sono lontani dagli uffici super lusso e super moderni che si trovano magari nelle grandi città, però dall'idea così di lavorare un po' tra la polvere, ma di lavorarci bene. Etica. Dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti del bene e del male. Etimo, dal greco etika, neutro plurale dell'aggettivo etikos, etico. Data, seconda metà, secolo XII. 349-238-6666. Da piccolo ho trovato il coltellino dei miei sogni, ma ho visto un tipo affranto, ho capito che l'aveva perso e gliel'ho ridato. Questa si tratta di etica del coltellino, forse, o etica del bravo conoscente. 800240024. Ho rinunciato qualche soldo in più in busta paga. Il capo mi aveva chiesto di fargli da spia dei miei colleghi. Paolo, etica dei colleghi. Ho rifiutato di congelare gli embrioni per completare la fecondazione artificiale. Anonimo da Macerata. Questa è etica cattolica, immagino. 800240024. Andiamo a Roma, andiamo da Andrea, che ha rinunciato a diventare primario. Pronto, Andrea? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Abbastanza bene. Dove ti trovi? Adesso prendo un cappuccino in un bar con una pausa dell'attività di ambulatorio. Che medico sei, Andrea? Sono un chirurgo ortopedico. E cosa significa che tu hai detto ho rinunciato a diventare primario per i motivi che dico io? Mi dici quali? Etici, immagino, ma... Allora, il problema è questo, tutti gli amici sempre ti chiedono ma come mai si diventa medico, come mai, effettivamente un po' di storia c'è che si diventa medici perché per fare del bene, per stare accanto alla gente, per risolvere i problemi, e però per studiare, per essere scienziati, quando tu sei studente, ti confesso che i medici pensano di prendere il Nobel, pensano di scoprire il farmaco nuovo, la cura per il cancro, però poi... Che è anche nobile, è anche nobile come obiettivo, no? Immagino, per uno studente. È quello che ti porta avanti, okay. Però poi ti provi a fare l'ambulatorio, le guardie di notte, cioè ogni lavoro c'ha la sua routine. Sì. Però cosa succede? Con l'età poi si selezionano un po' le persone, insomma in poche parole, 3-4 persone sono destinate a diventare primario. Allora la questione del primario... perché gli acquisti degli apparecchi, delle protesi, dei farmaci. Cioè, insomma, c'è un indotto economico intorno a questo, mi stai dicendo. Esattamente. Ma... quindi tu ricevi una quantità di rappresentanti, di ditte, di multinazionali, ognuna con dei prodotti validi, però come si fa a scegliere una piuttosto che un'altra? Quindi scusami, in una stanza ti fanno delle offerte. È chiaro, guarda, lo scenario è chiarissimo, Andrea. Volevo chiederti una cosa però, tu quanti anni hai adesso? 58. Beh, hai la voce di un ragazzino però. Hai 58 anni e potrei fare radio. Ma forse sì, invece. Hai 58 anni e quando è l'età in cui uno decide o rifiuta o semplicemente si accorge che non diventerà un primario? Cioè, tu quando è accaduta questa scelta? Allora, ti spiego cosa succede. Quando ero giovane, negli anni 80, tanto tempo fa, nel secolo scorso, il tuo professore, il tuo primario, ti dice, è facile, tu ti metti lì, studi e fai le pubblicazioni, vai ai congressi, sì, ci vogliono sì, in media okay. 100 pubblicazioni, quindi okay. Per fare una pubblicazione passano dei mesi sui libri, la documentazione, è una cosa abbastanza complicata, e in più il tuo lavoro, E questi, sai, è una fatica, cioè è una vita abbastanza sacrificata. E per cui alla fine tu ti avvicini a questo percorso e arrivi a un momento che tocca a te. Certo, e quindi scusami, la tua rinuncia com'è stata? Cioè ti sei chiamato fuori, hai detto no? Ho scritto una lettera di dimissione e sono andato a consegnarla all'ufficio del personale. E sai che cosa mi è successo? Che per 3 volte mi hanno mandato indietro, cioè le impiegate non avevano mai visto una cosa del genere. E erano terrorizzate, non volevano toccare quel foglio. Senti, tu hai una famiglia, hai una moglie, hai dei figli, Andrea? Sì, ce l'ho avuta. Però anche lei è rimasta un po'. La mia vicenda, insomma, è stata un po' travolta da questo sacrificio, capito? Cioè, quindi quello che mi stai dicendo è che una scelta legata a un proprio principio etico che si riverbera sulla propria professione, si riverbera anche sulla famiglia, sulla vita privata. Tutta poi la vita di un chirurgo. La vita del chirurgo è fagocitata, la vita normale viene fagocitata dalla vita professionale, non c'è più una notte, non c'è perché, giorno. Perché più? Perché, più Natale, perché scusami Andrea, perché la vita di un chirurgo più di quella di un rappresentante di commercio che è in giro tutto il giorno in auto e lavora magari 10 ore al giorno? Cioè, te lo domando perché so che è vera questa cosa. Cioè non è solo una questione di ore di lavoro, o sbaglio? No, non è solo quello. Non è solo quello, perché poi, tra l'altro, se il giorno dopo è un intervento difficile e ti tocca stare in piedi la notte e studiare, capire. Senti, Andrea, è veramente una cosa che è veramente, non, quando ero ragazzo non pensavo. Tu hai l'immagine del chirurgo, del primario, del tuo paese, della tua città, come di una persona risolta che va in giro con una bella macchina, una bella casa. Immagino che non sia esattamente così. Guarda, devo chiudere. Andrea, scusami, devo chiudere. L'ultima cosa però, al volo. Hai mai fatto un calcolo di quanti soldi hai rinunciato? No, mi sono rifiutato. Vabbè. La questione dei soldi. Però una cosa al volo te la voglio dire. Sai chi ha preso il posto? Il mio collega che giocava a tennis con il manager dell'ospedale. Andrea, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie mille, ciao. Dobbiamo chiudere. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi. Andrea, mi spiace per quelle altre persone che erano al telefono, ma sono stato assorbito dalla storia di Andrea. Grazie a Tiziano Bonini, a Franco Piantanida e a Roberto Scaltritti. La storia di oggi era di Fabrizio e anche lui è un punto rosso su una mappa. Siamo Massimo Nariotti, abito a Torino, la storia di domani è la mia e parla di quando mi sono ingarellato in bicicletta contro 2 signori molto anziani. Questa è la mia storia e io sono qui.